ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Seconda puntata. Insomma, Jack, dimmi, riprende poi il giovane, sinceramente pensi davvero che la menzione della nostra parentela ci divida in qualche modo? Io? No. Di norma gli zii sono talmente più vecchi dei nipoti, è la risposta, che quella sensazione mi è istintiva. Di norma? Beh, può essere, ma che differenza fa mezza dozzina d'anni o giù di lì? E ce n'è di zii nelle famiglie numerose che sono perfino più giovani dei nipoti. Per Diana, magari fosse il nostro caso. Perché? Perché allora sarei io a comandare e sarei saggio come il dolore finito che al giovane i capelli ha ingrigito e il vecchio alla polvere ha restituito. Ehi là, Jack, non bere. Perché no? Mi chiedi perché no? Il giorno del compleanno di Pussy, senza neanche proporre un brindisi di lunga vita. Pussy, Jack, è lunga assai. La vita, intendo. Sfiorando la mano tesa del ragazzo con un tocco affettuoso e ridente, come fosse allo stesso tempo la sua testa sventata e il suo cuore leggero, Jasper brinda in silenzio. Hip hip hip, 9 volte 9. E un'altra per chiudere, e avanti così, intesi? Urrà, urrà, urrà! E adesso parliamo un po' di Pussy. 2 schiaccianoci? Passamene uno e tu prendi l'altro. Crack! Come procede Pussy, Jack? Con la musica, discretamente. Sei così coscienzioso, Jack, ma lo so io come stanno le cose, che Dio ti benedica. Distratta, vero? Può imparare qualunque cosa, se vuole. Se vuole, appunto. Ma se non vuole, crack! Da parte di Jasper. Che aspetto ha Jack? La faccia concentrata di Jasper nel rispondere include nuovamente il ritratto. Molto somigliante al tuo schizzo. Un po' orgoglioso lo sono, dice il giovane, dando un'occhiata compiaciuta allo schizzo e poi chiudendo un occhio e cogliendone una prospettiva corretta da sopra il ponte dello schiaccianoci livellato nell'aria. Mica male se pensi che l'ho fatto a memoria. Comunque dovrei averla colta piuttosto bene quell'espressione, con tutte le volte che le ho vista. Crack! Da parte di Edwin Drood. Crack! Da parte di Jasper. Di fatto, riprende il primo con aria stizzita, dopo aver silenziosamente pescato fra i frammenti di noce, non faccio che vederla tutte le volte che vado a trovare Pussy. Se non gliela trovo in faccia quando arrivo, ce la lascio quando me ne vado. E tu lo sai bene, madama puzza sotto al naso. Buh! Con un volteggio dello schiaccianoce in direzione del ritratto. Crack, crack, crack. Lentamente, da parte di Jasper. Crack, bruscamente, da parte di Edwin Drood. Silenzio su entrambi i fronti. Hai perso la lingua, Jack. Hai ritrovato la tua, Ned? No, insomma, dopo tutto, non pare anche a te? Jasper solleva le sopracciglia scure con aria interrogativa. Non è seccante non poter scegliere in una questione del genere? Allora, Jack, sai cosa ti dico? Se potessi scegliere, sceglierei Pussy tra tutte le ragazze carine del mondo. Ma non hai bisogno di scegliere. È proprio di questo che mi lamento. Mio padre, morto e defunto, e il padre di Pussy, morto e defunto anche lui, si erano messi in testa in anticipo di farci sposare. Ma perché, diavolo, stavo per dire, ma non voglio mancar di rispetto alla loro memoria, non potevano lasciarci in pace? Zitto, zitto, caro ragazzo, protesta Jasper in tono di lieve disapprovazione. Certo, Jack, ti va tutto bene a te. Tu puoi prenderla a cuor leggero. La tua vita non è stata ridotta in scala e rigata e punteggiata come la mappa di un topografo. Tu non ne hai di sgradevoli sospette di essere imposto a qualcuno. E non c'è nessuna che ha lo sgradevole sospetto di essere imposta a te. o che tu lo sia a lei. Tu le puoi fare le tue scelte. La vita per te è come una prugna vellutata. A te nessuno l'ha strofinata, illustrata. Non fermarti, caro ragazzo, vai avanti. Ho forse ferito i tuoi sentimenti, Jack? Come puoi avermi ferito? Buon Dio, hai un'aria così sofferente che strani i tuoi occhi, sono come velati. Jasper, con un sorriso forzato, stende la mano destra come per placare l'apprensione e contemporaneamente guadagnar tempo per rimettersi. Ho preso dell'oppio per un male, un tormento che a volte mi assale. Gli effetti della medicina mi strisciano addosso come una nebbia o una nuvola, poi passano. Li vedi che stanno passando. Non guardarmi, se ne andranno prima. Col volto impaurito, l'uomo più giovane esegue, abbassando gli occhi sulle ceneri del camino. Senza distogliere dal fuoco lo sguardo fisso, intensificandolo piuttosto con la ferma, violenta presa sui braccioli, il più vecchio siede rigidamente per alcuni momenti e poi, con la fronte imperlata di grosse gocce e un brusco arresto del respiro, ridiventa quello di prima. Vedendo che si abbandona in poltrona, il nipote con gentilezza e premura lo assiste mentre si riprende. Quando si è del tutto rimesso, Jasper posa teneramente la mano sulla spalla del nipote e con un tono di voce meno tormentato del senso delle sue parole, in realtà con un che di canzonatorio o ironico, così gli si rivolge. Dicono che ogni casa nasconde uno scheletro nell'armadio, ma tu pensavi, mio caro Ned, che nella mia non ce ne fosse nessuno? È vero, te lo giuro sulla mia vita, Jack. Ma se mi viene in mente che persino nella casa di Pussy se ne avesse una, e nella mia se ne avessi una. Stavi per dire, quando involontariamente ti ho interrotto, che vita quieta è la mia, senza turbini o clamori, senza distrazioni di commerci o calcoli, senza rischi, senza spostamenti, io stesso dedito alla mia arte, il mio lavoro, il mio piacere. In effetti stavo per dire qualcosa del genere, Jack, ma vedi, parlando di te stesso è quasi inevitabile che tu tralasci un bel po' di cose che io includerei. Per esempio, metterei in primo piano il rispetto di cui godi come maestro del coro, o precentore, o come caspita si dice di questa cattedrale. La reputazione che ti sei guadagnato per i miracoli che hai fatto col coro, il fatto di sceglierti la tua compagnia e di rimanere del tutto indipendente in questo strano vecchio posto, il tuo talento nell'insegnare, beh, lo dice perfino Pussy che un insegnante come te non si è mai visto, e guarda che a lei i maestri non le garbano, e le tue conoscenze. Sì, l'avevo capito dove volevi arrivare, odio tutto questo. Lo odi, Jack? Molto disorientato. Lo odio. La soffocante monotonia della mia vita mi fa a pezzi. Come ti sembra la nostra funzione? Bella, celestiale. Spesso mi sembra diabolica. Ne sono esausto. Gli echi della mia voce tra le arcate paiono schernire la mia fatica quotidiana. Neanche uno dei miseri monaci che abbia trascinato la vita in questo posto, tetro prima di me, può essere stato più stanco. Poteva trovare sollievo, e l'ha trovato, mettendosi a intagliare demoni su scranni, seggi, scrittoi. E io cosa posso fare? Intagliarmeli nel cuore? Pensavo che ti fossi trovato la tua nicchia perfetta per vivere, Jack, risponde Edwin Drood, stupito, sporgendosi dalla sedia per posare una mano comprensiva sul ginocchio di Jasper e fissandolo con occhi ansiosi. Lo so che lo pensavi. Lo pensano tutti. Facciamo quattro passi nel cimitero? Senz'altro. Se non ti dispiace, mi allontano per un attimo e faccio una scappata alla casa delle monache per lasciarci un pacchetto. Solo guanti per Pussy. Tante paia quanti sono gli anni che compie oggi. Piuttosto poetico. No, Jack? Jasper, ancora nello stesso atteggiamento, mormora: nulla di più dolce nella vita, Ned. Eccolo qua il pacchetto, nella tasca del mantello. Devono essere consegnati stasera, altrimenti la poesia se ne va. È contro le regole fare visita di sera, ma non lasciare un pacchetto. Sono pronto, Jack. L'atteggiamento di Jasper si dissolve ed essi escono insieme. La casa delle monache. Per più di un motivo che questa stessa narrazione dispiegherà nel procedere, alla vecchia città della cattedrale deve essere attribuito un nome fittizio. In queste pagine sia Cloisterham. Forse un tempo era conosciuta dai druidi sotto un altro nome, e certamente sotto un altro dai romani, e sotto un altro dai sassoni, e sotto un altro dai normanni, e un nome in più o in meno nel corso di tanti secoli non può avere molta rilevanza nelle sue polverose cronache. Una città antica, Cloisterham, una residenza inadatta per chiunque brami il rumore del mondo, una monotona, silenziosa città, pervasa da un odore di terra proveniente dalla cripta della cattedrale e talmente gremita di vestigia di tombe monastiche che i bambini di Cloisterham coltivano l'insalatina nella polvere di abati e badesse e fanno torte di terra con monache e frati, mentre ogni aratore nei campi lontani riserva a lord tesorieri un tempo potenti, arcivescovi, vescovi e simili, la stessa attenzione che l'orco delle favole riservava al visitatore indesiderato e ne sminuzza le ossa per farne pane. Nel centro di Cloisterham si trova la Casa delle Monache, un venerabile edificio di mattoni il cui nome attuale è senza dubbio derivato dalla leggenda sulla sua antica destinazione conventuale. Sul lindo cancello che delimita il vecchio cortile splende una targa di ottone su cui rifulge la scritta «Seminario per giovinette, signorina Twinkleton». La facciata è così vecchia e consunta e la targa di ottone così lucida e vistosa che l'insieme ha suggerito a fantasiosi forestieri l'idea di un vecchio damerino malandato con un imponente, moderno monocolo ficcato nell'occhio cieco. L'alunna preferita della Casa delle Monache è la signorina Rosa Budd, chiamata ovviamente Rosebud, boccio di rosa, incredibilmente carina, incredibilmente infantile, incredibilmente capricciosa. Un imbarazzato interesse, imbarazzato perché romantico, suscita Bud nelle menti delle giovanette, essendo noto che le è stato scelto un marito per legato testamentario e che a quel marito, una volta maggiorenne, è tenuta a consegnarla il suo tutore. Il pomeriggio successivo alla cena 2, nella casa di pietra, il campanello risuona con l'esito eccitato di sempre. Il signor Edwin Drood per la signorina Rosa. E questo l'annuncio della capocameriera. La signorina Twinkleton, esemplarmente ammantata di malinconia, si rivolge alla vittima sacrificale e dice: «Puoi scendere, mia cara». Bud scende, seguita dagli occhi di tutte. Edwin Drood è in attesa nel salotto privato della signorina Twinkleton, una stanza graziosa, dove gli unici oggetti esplicitamente scolastici sono due globi, uno terrestre e uno celeste. Questi espressivi attrezzi rendono implicito a genitori e a tutori, come anche in seno all'intimità, il dovere possa a ogni istante costringerla a divenire una specie di ebrea errante che vaga in terra e solca il cielo in cerca di sapere per le sue allieve. La cameriera, arrivata di recente, che non ha mai visto il giovane signore fidanzato con Rosa e che sta facendo la conoscenza tra i cardini della porta lasciata aperta allo scopo, inciampa colpevolmente giù per le scale della cucina quando una piccola deliziosa apparizione scivola dentro il salotto, col volto coperto da un grembiolino di seta gettato sul capo. «Oh, è talmente ridicolo», dice l'apparizione, fermandosi e ritraendosi. «Non farlo, Eddie. Non fare che, Rosa? Non ti avvicinare, per favore. È talmente assurdo». «Cosa è assurdo?» «Tutto quanto. È talmente assurdo essere un'orfana fidanzata ed è talmente assurdo sentire le ragazze e le cameriere che corrono di qua e di là come topi dietro i muri ed è talmente assurdo ricevere visite». Sembrerebbe che l'apparizione tenga il pollice all'angolo della bocca mentre esprime queste lamentele. «Per Diana Pussy, che accoglienza affettuosa! Tra un attimo, Eddie. Ancora non mi riesce. Come stai? Non posso risponderti che sto meglio perché ti vedo, Pussy, dato che non vedo un bel niente. Questa seconda rimostranza fa sbucare un occhio scuro, luminoso e corrucciato da un angolo del grembiule. Me ne vado? No, non serve che te ne vai già adesso, Eddie. Se no, figurati, tutte le ragazze a chiedere per come e per cosa. Rosa, ti decidi una buona volta a scoprire quella tua testolina ridicola e darmi il benvenuto? Il grembiule viene tirato giù dalla testa infantile, mentre colei che lo indossa risponde: sei davvero il benvenuto, Eddie. Ecco fatto. Così va bene? Diamoci la mano. No, niente baci. Sto succhiando una pasticca acida. Ma sei poi contenta di vedermi, Pussy? Sicuro, contentissima. Siediti, signorina Twinkleton. D'abitudine durante queste visite l'eccellente signora compare ogni 3 minuti di persona o nella persona della signora Tischer e reca un'offerta al tempio del decoro, fingendo di cercare un qualche oggetto di cui ha bisogno. Nella presente occasione, scivolando dentro e fuori con grazia, dice nel passare: come state, signor Drood? Lieto davvero del piacere, vi prego di scusarmi. Pinzette, vi ringrazio. Ieri sera ho ricevuto i guanti, Eddie, e mi piacciono moltissimo, sono una bellezza. E un'altra cosa, Eddie, per farmi contenta, dice Boccio di Rosa. Appena siamo in strada, voglio stare sul lato esterno e tu sta attaccato alla casa, appiccicato al muro. Ma certo, Rosa, se ti fa piacere, posso chiedere perché? Oh, perché non voglio che le ragazze ti vedano. È una bella giornata, ma vuoi che tenga aperto l'ombrello? Non siate sciocco, signore. I tuoi stivali non sono belli lucidi, imbronciata sollevando una spalla. Ma forse le ragazze non lo notano, anche se mi vedono, osserva Edwin guardandosi gli stivali con improvviso disgusto. Notano tutto, signore, e io lo so come va a finire. Figurati se non si mettono a fare commenti a dire perché sono libere loro, che neanche dipinte si fidanzerebbero con uno che gli stivali di pelle non ce li ha belli lucidi. Ascolta, la signorina Twinkleton, le chiedo il permesso. Essendo in effetti possibile sentire la dama discreta mentre si avvicina alla porta e in tono blandamente colloquiale chiede a nessuno: siete proprio sicuro di aver visto il mio portabottoni di madreperla sul tavolo da lavoro del salotto? E viene chiesto all'istante il permesso di uscire, che viene graziosamente accordato. E subito dopo la giovane coppia esce dalla casa delle monache, prendendo tutte le precauzioni perché non venga scoperto lo stato indecente degli stivali del signor Edwin Drood. Precauzioni, ci auguriamo, capaci di tranquillizzare la futura signora Drood. Da che parte andiamo, Rosa? Rosa risponde: voglio andare al negozio delle zolle di delizia. Delle? Dolcetti turchi, signore. Santo cielo, ma non capisci niente. Bell'ingegnere che sei se non sai questo. Perché dovrei saperlo, Rosa? Perché io li adoro. Oh, dimenticavo che dobbiamo far finta. No, non serve che lo sai, fa niente. E così viene cupamente trascinato al negozio, dove Rosa fa il suo acquisto e, dopo avergli offerto le zolle di delizia, da lui rifiutate con una certa indignazione, inizia golosamente a mangiarle, essendosi prima sfilata un paio di piccoli guanti rosa simili a petali di rosa e portandosi di tanto in tanto alle rose labbra le rose dita per pulirle dalla polvere di delizia che si stacca dalle zolle. Dai, adesso fai il bravo, Eddie, e fai finta. Sicché siete fidanzato? Sicché sono fidanzato. È carina? Affascinante. Alta? Straordinariamente alta. Rosa è piccola. Goffa e sgraziata, immagino, è il quieto commento di Rosa. Chiedo scusa, ma non lo è affatto, con vivace spirito di contraddizione. Ciò che si dice una bella donna, una donna splendida. Naso grosso, senza dubbio, è di nuovo il quieto commento. Piccolo no, di sicuro, è la replica immediata. Quello di Rosa è minuscolo. Lungo naso bianchiccio con un bitorsolo rosso in mezzo, lo conosco io, quel tipo di naso, dice Rosa con un cenno soddisfatto del capo, gustandosi in tranquillità le zolle. No che non lo conoscete, quel tipo di naso, con un certo calore, perché non è niente del genere. Non è un naso bianchiccio, Eddie? No, determinato a contraddire. Un naso rosso? Oh, detesto i nasi rossi. Beh, del resto può sempre incipriarselo. Non si abbasserebbe mai a farlo, dice Eddie accalorato. Ma va, bella scema deve essere. È scema in tutto? No, in niente. Dopo una pausa, durante la quale non ha smesso di osservarlo con capricciosa malizia, Rosa dice: e questo modello di intelligenza smania di essere trascinata in Egitto? Le piace l'idea, Eddie? Le due giovani figure, fianco a fianco, ma non a braccetto, ora, vagano scontente sul vecchio sagrato e di tanto in tanto una delle due si ferma a imprimere un'ombra più profonda nelle foglie cadute. È quasi ora di tornare, Rosa. Non è stata granché felice la nostra passeggiata, vero? Felice? Brutta e infelice, signor mio. Guarda che se vado di sopra appena entrata e piango tanto da saltare la lezione di danza, è colpa tua. Cerchiamo di essere amici, Rosa. Ah! Grida Rosa, scuotendo la testa e scoppiando in lacrime vere. Vorrei tanto che potessimo essere amici. È perché non siamo amici che ci diamo addosso in questo modo. Sono una cosetta troppo giovane, Eddie, per avere un vecchio cuore in pena. Ma ce l'ho davvero certe volte, ce l'ho davvero. Non arrabbiarti. Lo so che ce l'hai anche tu, troppo spesso. Era meglio per tutte e due se la vita che deve essere fosse rimasta la vita che poteva essere. Sono una cosetta molto seria adesso, non ti sto canzonando. Non litighiamo stavolta. Siamo pazienti con noi stessi e l'uno con l'altro. Disarmato dalla fuggevole comparsa della donna nella bambina viziata, pur se momentaneamente incline a risentirsi per l'evidente implicazione di essere un peso inflittole a forza, Edwin Drood rimane a guardarla mentre piange e singhiozza come una bambina, premendo con entrambe le mani il fazzoletto sugli occhi e poi, mentre si ricompone, inizia con incoerenza infantile a ridere di tutta quella commozione, la porta verso un sedile lì accanto sotto gli olmi. Una sola parola per capirci fino in fondo, Pussy cara. Fuori dal mio campo non valgo granché, anzi, a pensarci non sono sicuro di valere granché neanche in quello. Ma voglio agire bene. Non c'è, potrebbe anche esserci, non riesco a trovare le parole giuste per dirlo, ma devo dirlo prima che ci lasciamo. Non c'è un altro giovane. Oh no, Eddie, sei generoso a chiederlo, ma no, no, no, no. Sono ormai molto vicini alle vetrate della cattedrale e in quel momento l'organo e il coro risuonano sublimi mentre siedono in ascolto del solenne crescendo. La confidenza della notte passata torna alla mente del giovane Edwin Drood, che riflette su quanto questa musica sia dissimile da quella discordanza. Mi pare di riconoscere la voce di Jack, è la sua osservazione a voce bassa, collegata al filo dei suoi pensieri. Per favore, riaccompagnami subito indietro. Lo sollecita la fidanzata, posandogli la mano sul polso, lieve e repentina. Tra un po' escono tutti quanti, andiamo via. Oh, come risuonano gli accordi, ma non fermiamoci a sentire, andiamo via. La sua fretta svanisce non appena escono dal sagrato. Se ne vanno a braccetto con una certa serietà e determinazione lungo la vecchia strada maestra verso la casa delle monache. Al cancello, essendo la strada deserta e nessuno in vista, Edwin china il viso a sfiorare quello di Boccio di Rosa. Lei protesta ridendo e torna ad essere una ragazzetta infantile. Eddie, no, non baciarmi, sono troppo appiccicosa. Ma dammi la mano e ti ci soffio dentro un bacio. Lui lo fa. Lei vi alita dentro un alito lieve e chiede, trattenendo la mano e osservandola: e adesso dimmi, cosa vedi? Cosa vedo, Rosa? Beh, credevo che voi ragazzi egiziani